24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta. L'Europa nella morsa del gelo, probabilmente la più intensa degli ultimi decenni. Diversi paesi costretti a fronteggiare situazioni di emergenza per ghiaccio, neve, temperature record e il freddo miete vittime. Da noi l'hanno già ribattezzato gelo siberiano, il che la dice lunga su come il nostro paese non sia abituato a freddi così intensi e nevicate abbondanti, anche a bassa quota. Ma questa volta si è trattato di qualcosa di straordinario anche per il resto d'Europa. Il bilancio delle vittime è pesante, soprattutto nell'est europeo. Negli ultimi giorni almeno 60 persone sono morte in Polonia, Romania e Bulgaria. 45 nella sola Ucraina, dove la colonnina di mercurio è scesa sotto i 30 gradi. Qui ci sono 24.000 persone in cerca di rifugio nei posti di soccorso. Le previsioni meteorologiche non lasciano spazio ad ottimismo, tanto che molti paesi hanno già deciso di dispiegare l'esercito per aiutare le persone in difficoltà sulle strade e per montare ricoveri d'emergenza. Vittime anche in Serbia, dove ci sono anche 2 persone disperse. In Russia sono circa 30 i morti dall'inizio dell'inverno. La maggioranza delle vittime sono senza tetto. Nei prossimi giorni, a Mosca, la colonnina di mercurio dovrebbe scendere ancora, fino a meno 26. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nonostante i consumi di gas in Russia siano aumentati a causa del freddo, Gazprom continua a rispettare i suoi obblighi nei confronti dei clienti europei, lo ha garantito la compagnia russa smentendo voci di insufficienti consegne all'Europa. La nostra società, ha spiegato Gazprom, sta impiegando tutte le vie di trasporto disponibili, in particolare il gasdotto Blue Stream sta operando a pieno regime e ha aumentato i volumi di consegne attraverso il gasdotto Yamal Europa. Voltiamo pagina. Ogni paese che firmerà il Fiscal Compact si impegna a porre un freno al debito nella sua legislazione. Questo aumenterà la credibilità, lo ha detto il presidente permanente dell'Unione Europea, Herman Van Rompuy, davanti alla plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles. Non c'è nulla di virtuoso nel debito pubblico, che è anzi una minaccia, ha aggiunto Van Rompuy. Il patto di bilancio non è un impegno all'austerità, ma al finanziamento della spesa pubblica con gli introiti e non con il debito, che sottrae sempre maggiori risorse ai servizi e agli investimenti pubblici, ha concluso il presidente dell'Unione Europea. E per Piazza Affari è stata una chiusura con un rialzo da brividi. La Borsa di Milano ha vantato la performance migliore del vecchio continente. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in progresso del 2,77%. Lo spread BTP Bund ha chiuso in forte calo a 382,8 punti dai 417 punti di ieri. Si tratta del livello più basso dei primi di dicembre. Intanto l'autorità europea dice no alla fusione tra le borse di New York e Francoforte. La Commissione europea ha annunciato di avere bloccato la fusione tra il New York Stock Exchange e Deutsche Börse, un'operazione valutata circa 9 miliardi di dollari. La decisione, attesa, è stata presa perché la nuova società avrebbe avuto pressoché il monopolio della compravendita di derivati europei, con il controllo del 90% del mercato. Presentando la scelta della Commissione, il commissario alla concorrenza, Joachim Almunia, ha sottolineato l'importanza di garantire il libero mercato. Incidentalmente, la decisione comunitaria è un nuovo segnale di come il gigantismo in campo finanziario non vada più di moda, almeno in alcuni settori dell'establishment. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Il caccia francese Rafale ha vinto il mega contratto di 126 jet della difesa indiana per un valore di 10,4 miliardi di dollari. I francesi erano in gara con il consorzio europeo Eurofighter, partecipato alla Finmeccanica. Ma a cosa servono questi 126 caccia bombardieri al governo di Nuova Delhi? Sentiamo Gigi Donelli. La risposta formale è rinnovare appunto la flotta e gli armamenti. Certo che, vedendo la posizione indiana, il grande potenziale rivale è la Cina. La Cina, con cui non dimentichiamo nel 62 ci fu guerra sulla frontiera e dove ancora ci sono parecchi chilometri di frontiere non determinate. Naturalmente due colossi che hanno altre priorità, ma insomma a nord c'è appunto il gigante cinese. 126 Rafale significa circa tra i 10 e i 12 miliardi di euro di ordine e dunque migliaia di posti di lavoro in un'industria, quella dell'aeronautica e dell'aerospaziale, in cui i francesi sono evidentemente molto forti. Smacco dall'altra parte per Gran Bretagna, Germania, Italia e Spagna. In realtà questi sono i paesi che costituiscono il gruppo dell'Eurofighter. Certo, non è una novità assoluta, in realtà gli indiani sono già clienti storici dei francesi con Mirage e in particolare la Francia negli ultimi tempi è molto attiva sul fronte delle commesse militari. Basterà citare la cessione di 5 Mistral, navi molto importante, alla flotta russa. Insomma, business as usual, che nel settore militare, nonostante la crisi, vanno sempre molto forte. Grazie a Gigi Donelli. In Italia spariscono 75 ettari di verde al giorno. È la conclusione shock del dossier sul suolo messo a punto dal FAI, dal WWF, e il nostro paese rischia di finire anche sotto accusa da parte dell'Europa. Costanza Pratesi del FAI al microfono di Maria Piera Ceci. Per ora c'è un documento della Commissione europea che è ancora, come dire, un lavoro in corso d'opera, e questo documento della Comunità europea del settembre del 2011 parla del 2050 come termine nel quale non edificare più su aree nuove, su aree libere, su aree appunto verdi in qualche maniera. E indica anche che nel periodo tra il 2000 e il 2020 bisognerà ridurre l'occupazione di nuove terre, quindi di iniziare queste politiche per il contenimento del consumo dei suoli, perché è un processo lungo, cioè non si potrà dall'oggi a domani fermarlo, ma è un processo lungo che merita provvedimenti diversi, ma di iniziare questo processo entro il 2020, quindi siamo già a metà strada temporalmente parlando, e quindi è il momento di affrontare a tutti i livelli di amministrazione questo problema. La musica adesso. Un altro italiano talentuoso viene capito prima all'estero. Come per Paolo Conte, infatti, anche per Gian Maria Testa il successo è arrivato prima in Francia e poi, dopo molto tempo, anche in Italia. Per raccontarvi chi è Gian Maria Testa, siamo andati a Parigi con Nicola Accardo. Lele si guarda soddisfatta, anche se tutti la dicono perduta, e lo specchio le rimanda il volto. Neanche lui non l'ha riconosciuta. Il settimo album di Gian Maria Testa si intitola Vita Mia. È un lavoro nato in occasione dei 50 anni dell'artista piemontese che, dopo 18.000 giorni vissuti, si è posto tante domande. A malincuore ha lasciato il lavoro di capostazione a Cuneo. È stato protagonista di uno spettacolo teatrale sul tema dei licenziamenti e, a distanza di 3 anni, ha inciso il disco. Gian Maria Testa. Questi sono stati anni molto complicati, per usare un generosissimo eufemismo, in Italia. E ho fatto molta fatica a scrivere, però poi io non è che scrivo perché poi voglio pubblicare un disco, scrivo perché mi viene una specie di urgenza, insomma. E quando abbiamo cominciato il lavoro con Giuseppe Battistone e Andrea Baiani, che ha scritto un monologo molto bello sulla la storia di una giornata di uno di 50 anni che è stato licenziato, io ho scritto le canzoni che fanno da corollario a quel monologo, e lì c'è stato l'impulso a portare a compimento, oltre a quelle canzoni, quindi di aggiungerne altre. E in chiusura una notizia sulle due gemelle tedesche che hanno fatto sognare generazioni di italiani. Hello boys, traversando tutto l'Illinois. Unite nella vita, unite nella morte. A 75 anni ancora sul palco, in scena con Dr. Jekyll e Mr. Hyde, le gemelle Kessler lanciano la provocazione. Tra noi hanno rivelato c'è un patto per l'eutanasia. Se una si ridurrà allo stato vegetativo, l'altra l'aiuterà ad uscire di scena. Una confidenza sconcertante che ha dell'incredibile a sentirla da loro, ancora non solo in buona salute, ma piene di energia come appaiono sul palco dopo decenni di attività. Eppure Elena e Alice non lasciano spazio ai ripensamenti. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo, confidano, se una di noi due dovesse non farcela, l'altra l'aiuterà ad uscire di scena. E le idee, dicono, le hanno chiare. In Olanda spiegano esiste questa libertà, in Svizzera pure. Al nostro paese nessun accenno, ma alla loro Germania sì. Speriamo che lì ci sia presto. Parola di Alice ed Helen Kessler. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, grazie a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.